calle, la noche y la vida loca. Estamos muy chistos petando. Una bitch che mi slaccia la zip e si abbassa gli slip. Flow freschezza per la giovinezza versa l'elisir. Entro nella tana con la pesa che non tara. Ti da un deck in amicizia che l'ha presa dalla Spagna. E se la mena sei primizia, mai non le dirò chi sono veramente. Tu lo sai che un bro mi conosce da sempre. Mi sentono in radio poi pensano che sono un genio fra. Se fai lo squalo con Mario ti sbrana l'acquario di Genova. Ok baby, non chiedermi mai dei problemi al venerdì night. Vuoi tapere? Non so dopo se conviene. Metti che ti dirò quel che penso e non ti ho detto fino a stasera. Viene balla con il poeta Dante Dua. 100.000 sto Patek di milione. 100 amici nel privé, non in prigione. Quanto è figa la tua fan di colore. I nemici della fam, non timore. So già poi che non dormirò. Vieni via con noi, ti do il civico. E chiedi di Asterix al citofono. Ogni para non può fottermi. Finché il DJ suona devi muoverti. Ho preso lo scheletro nell'armadio e l'ho dato in pasta ai cani. Tolgo il lenzuolo dei miei fantasmi. Ryan o te tu puoi nominarmi. Sul trono di spade fumo e vedi draghi. Step dopo step, sono in top 10. Dietro di me non so chi c'è. Dopodiché la musica non la fanno i numeri. Guarda fra la mia promo sopra di un cartellone. Non mi cambierà mai la fama, il cash o le donne. Primo guido di fretta e sono già in testa al giro. Scrivo chi mi contesta è intestardito. Tu con me ci perdi, ammettilo. Fugo degli agenti, metti il nos. Questo quanto parla è peggio della bamba. Scusa se ne asciugo, spegni il phone. Il tuo ticket conta soldi, ma ricordati per ritorna conti che non compri mai. Certi valori o li hai non sai poi come porti. 100.000 sto Patek di milione. 100 amici nel privé, non in prigione. Quanto è figa la tua fan di colore.